Benvenuti al podcast numero 8 del podcast di GNU Funk, dedicato a Linux audio e musica libera. In questa puntata abbiamo come ospite graditissimo Emiliano Grilli, che avevamo già intervistato qualche episodio fa. Ciao Emiliano. Ciao a tutti. Ritornato a trovarci. E siamo solo noi per adesso vediamo se qualcun altro entra in conferenza. In questa puntata abbiamo diverse cose di cui parleremo. Cominciamo con le segnalazioni. Ci ha segnalato l'Open Source Musician, che è un podcast che più o meno tratta gli argomenti che trattiamo noi però in lingua inglese, e ci hanno citato sul loro podcast, e quindi noi ricambiamo molto molto volentieri. Tu l'hai mai ascoltato il podcast, questo podcast di Milo? Sì, io ne ho ascoltati, non so, 5-6 puntate. Sì, sono simpatici. Sì, l'ho ascoltato facendo altre cose, quindi non è che l'abbia seguito proprio pedissequamente, però no, è un bel podcast, poi anche tecnicamente è fatto molto bene. Sì, anche loro sono un po' dei maniaci sull'audio e su Linux, quindi ogni tanto riusciamo anche a scambiarci qualche trucchetto audio per fare un podcast. Cerchiamo sempre di farlo meglio, ma i mezzi sono quelli che sono e io almeno non sono capace. Beh, no, dai. E dopo questa pausa tristissima, niente, dopo questa ovviamente la tagliamo. Sì, questo è tutto minzolinabile. Sì, poi arriva la censura. Seconda segnalazione, volevamo parlare di Open Video Italia, che è un nuovo gruppo che sono più o meno i nostri cugini, che cercano di fare quello che noi facciamo con l'audio, cercano di fare la stessa cosa con il video. Hanno un wiki che è openvideo.linux.it, una mailing list che trovate su list.linux.it, canale IRC openvideo-it su Freenode, e noi abbiamo parlato soprattutto con Raffaella, che viene spesso sul nostro canale. Raffaella, che tra parentesi è andata alla conferenza del FrostCon e ha anche vinto il primo premio nel concorso video. Ah, questa è un'ottima notizia. E tu l'hai anche conosciuta alla conferenza Creative Commons di un paio di settimane fa? Sì, io Raffaella l'ho conosciuta, è una persona simpaticissima, abbiamo mangiato anche un gelato insieme, ha un gusto stranissimo, era formaggio e pere, un buonissimo gelato tra l'altro. E sì, le sue iniziative sono fantastiche, perché lei lavora con bambini e fa delle cose meravigliose di animazione e li coinvolge, ci ha fatto vedere anche dei video, diciamo il making of, era veramente fantastico. E sì, per quanto riguarda Open Video, il wiki è ancora veramente a uno stato embrionale. Io ho scritto la pagina sull'audio, ho imbastito una paginetta con i link ai programmi più importanti, così, ma diciamo che la parte video è ancora da fare. Anzi, vorrei lanciare un appello a tutti gli esperti di video con Linux di appunto contribuire a questo wiki e a farlo crescere. Sì, tu sei andato a questa conferenza di cui stavi parlando, è la famosa conferenza Creative Commons, che è organizzata da Pitondo, dai Rotondo, anzi, mi correggo, in cui c'erano anche altri esponenti della Creative Commons in Italia, come Daniele Torelli, che è un musicista, poi c'era Antonella Beccaria, che è una scrittrice, e poi c'erano i Licaoni, che sono dei videomaker, e poi c'era Lorenzo Benussi della Creative Commons Italia, E poi ho dimenticato qualcuno. Ah, poi c'era un ragazzo che chiamavano Beppe, ma non mi ricordo il cognome, forse non l'ha detto, che era dei 15, che sono una... sono un'associazione che praticamente legge libri e da fare recensioni su manoscritti, diciamo, che gli vengono spediti. Comunque sì, tornando alla conferenza, è stato un evento molto interessante, soprattutto non c'erano tantissima gente, saremmo stati 30-40 persone, ma è stato bello perché c'era un esponente praticamente di ogni sfera artistica, se vogliamo. C'erano appunto Daniele Torelli, musicista, Antonella Beccaria, scrittrice, erano rappresentate più o meno tutte le varie arti liberali, non so come dire. E fra parentesi, hai fatto anche un'opera meritoria, perché con mezzi di fortuna sei riuscito a registrare la conferenza, e questo ci è venuto buono per un altro progetto che andiamo ad annunciare di GNU Funk, che è la radio. Abbiamo deciso di cercare di aprire una radio Creative Commons. Indirizzo è radio.gnufunk.org, questo è il sito su cui trovate tutte le informazioni sul palinsesto, su cosa viene trasmesso in radio. Trovate anche il link al blog dove potete rimanere informati circa gli eventi che verranno trasmessi. La radio appunto trasmette 24 ore di musica Creative Commons. Non siamo una radio che ha scopi commerciali, quindi trasmettiamo sia programmazione, musica non commercial, sia Creative Commons commercial. La radio è pubblica da circa un paio di settimane, e una delle prime cose che abbiamo mandato in onda come trasmissione è appunto la registrazione integrale della conferenza che ha fatto Emilio assieme a Carlo di Rotondo. Sì, Carlo, che stasera doveva essere con noi, aveva giurato e spergiurato che ci sarebbe stato, e invece, insomma, non c'è. Quindi non so, che vogliamo dedicargli uno spot del nostro Aldrego Seculo. Carlo, non ce lo dovevi fare. Stai suonandolo in diretta? Sì, certo. E c'ho anche il cucchiaio. Un cucchiaino da caffè. Vedi, quando ti avevo intervistato e tu avevi detto di essere un polistrumentista, d'altronde. Ma io sono uno che ha tanti strumenti, più che un polistrumentista, appunto. Però mi diverto. Ho trovato anche in questo mercatino una ocarina di budrio. Questa. Questa è bellissima. Poi, insomma, varie... sì, l'ocarina è molto bella. Ma il fatto che comprarle costano un bel po', eh. Sì, ma è un dodecafonico o è... Come funziona l'ocarina? No, è una specie di flauto, cioè una... sì, una specie di flauto. No, fai proprio tipo un'ottava e mezzo. Probabilmente quelli bravi riescono a fare anche di più. Ci sono tutte le note... Beh, direi di ricordare che appunto la registrazione, oltre ad essere stata mandata sulla radio, è disponibile su archive.org, separata per interventi, così potete ascoltare quello che più vi interessa, insomma. Sì, in questa mentre registravi sei riuscito a registrare anche un pezzo del concerto di Daniele. Sì, di Daniele Torelli, e andiamo ad ascoltarci questo pezzo della sua band che si chiama Goodbye Reagan, e il titolo non me lo ricordo e quindi lo ascoltiamo. Grazie, buonanotte. E in questa trasmissione cerchiamo di introdurre una tecnica radiofonica che ho scoperto grazie a Audiofilo 2 settimane fa, e che sono impazzito per farla funzionare. Adesso spero che funzionerà. Questa tecnica si chiama il ducking. Ah, ok, il ducking. E Emilio sicuramente ne sa più di me, quindi magari se vuoi spiegarla meglio di come potrei fare io. Sì, dunque, io non l'ho mai fatta in pratica perché appunto è una cosa per fare radio soprattutto. Si tratta di usare un compressore sulla base musicale, che viene diciamo pilotato invece dalla voce dello speaker, qualcosa del genere, no? Sì, esatto. In questo caso il compressore, invece di essere azionato direttamente dal segnale stesso che deve comprimere, viene innescato da un segnale esterno, e quindi in questo caso la voce. Quindi quando la voce quando subentra la voce, la musica viene compressa e scende di volume. La musica si abbassa. Esatto, alla fine è quello. Se voi ascoltate le radio, spesso, molto molto spesso, viene usato questo trucchetto, che è semplicemente un trucchetto. Non c'è nessuno dietro al mixer che alza e continua a abbassare, ma c'è, ma lo fa per altri motivi. Dai, facci sentire un esempio di ducking. Sì, ecco, per esempio questo è un ducking, anzi tutto quello che state ascoltando è un ducking. E tutto questo lo potete fare con Ardour usando un LAD SPA, che è l'SC3, che è un compressore che ha appunto tre entrate e due uscite. Tre entrate perché ha due ingressi tipicamente stereo del sottofondo, e il terzo ingresso invece è la voce, che serve appunto per modulare il sottofondo, e sulle due uscite esce il sottofondo modulato in base alla voce. Sì, è una cosa che per un podcast ad esempio torna molto utile. Sì, in questa puntata faremo anche un'intervista ad Essa DJ, e io la lancerei subito. Un'intervista con The Sad DJ al secolo Marco Donnarumma. Marco, vorresti presentarti? Il tuo sito, ricordiamo, è www.thesaddj.com. Ciao e grazie per la possibilità di essere qui con voi. Sono Marco Donnarumma, anche conosciuto per il progetto The Sad. Sono un artista indipendente, floss developer e docente. Mi occupo di live media, in particolare della creazione e lo sviluppo di ambienti interattivi free open source. Le mie opere assumono spesso varie forme, come performance audiovisuali, composizioni elettroniche o elettroacustiche, installazioni multimediali e scenografie interattive. I miei lavori sono regolarmente performati e esibiti nei maggiori eventi specializzati in Europa, America e India. SadDJ.com non è solo il mio sito personale, ma anche un blog di informazione sulle pratiche open source legate alla creatività digitale, festival e quant'altro. Nonostante ora sia molto soddisfatto dell'andamento del blog, spero in futuro di avere più tempo da dedicare a questa attività di informazione. Ci siamo conosciuti sulla mailing list di Poredata, software di cui tu sei un grande utilizzatore. Ci spieghi perché usi Poredata e ci puoi descrivere in che modo lo usi? Beh, Poredata è un ambiente di programmazione grafica in real time per audio e video. Fa parte della famiglia dei linguaggi di patch programming come Max, MSP ed è stato sviluppato originariamente da Miller Puckett all'IRCAM di Parigi. PD è free, open source e multiplatform e vanta una delle comunità più grandi e attive a cui abbia mai partecipato. Nel mio lavoro uso PD per diversi motivi. PD offre una flessibilità unica nello sviluppo di strutture di dati e processamento, sia audio che video, dandoti la libertà di creare praticamente ogni cosa ti passi per la testa. Non c'è bisogno di essere programmatori professionali per utilizzarlo, io non lo sono ma sto imparando, proprio perché imparare l'utilizzo di Pure Data permette di capire come usare i principi della programmazione vera e propria. L'estrema versatilità di PD è coadiuvata perfettamente dal suo carattere multimediale e permette di creare singoli programmi che sfruttano nello stesso tempo logico linguaggi diversi come audio, video, grafica generativa, networking, data mining, physical computing o anche robotics. Uno dei principali motivi del mio interesse per Pure Data è la sua comunità. Sul web esiste una comunità veramente grande di artisti, programmatori e appassionati che condivide continuamente conoscenza, idee e progetti tramite la mailing list, i diversi forum nazionali, il portale ufficiale e altri canali. È una risorsa veramente vasta in cui si può respirare a pieni polmoni lo scambio spontaneo di cultura e conoscenza, permettendo a tutti di contribuire, imparare e anche insegnare. E questo credo possa accadere solo quando si pratica un'attività creativa libera dalle logiche di mercato degli strumenti user friendly. Credo fermamente che usare un software open source dia un estimabile valore aggiunto ad un progetto. E a proposito del mio setup, ultimamente il mio setup include un laptop Pure Data, ovviamente, un basso elettrico, un vecchio microfono dell'esercito svedese e alcuni sound object. Viaggiando molto in aereo sono stato abituato a mantenere al minimo la strumentazione, ma trovare altri metodi per riuscire a ottenere il massimo della potenzialità di ogni strumento. Per me la tecnologia è solamente un mezzo, quindi tendo sempre a cercare di minimalizzarla in modo estremo per riuscire a tirar fuori l'essenzialità. D'altronde l'azione umana secondo me rimane sempre l'aspetto più importante di una produzione artistica. Di conseguenza molte volte cerco di limitare me stesso, sia con gli strumenti sia con le tecniche, perché mi piace accettare questa sfida con me stesso nel riconoscere le capacità che come essere umano ho e è mio compito portare al massimo. Uno dei tuoi progetti software in Pure Data che hai sviluppato è iControl Nature. Ci vuoi spiegare cosa fa questo software? Sì, iControl Nature è un'azione sinestetica di improvvisazione audiovisuale. La performance vuole rappresentare una celebrazione sarcastica dell'istinto umano finalmente capace di governare la natura. I movimenti, i miei gesti del corpo decostruiscono l'intero ciclo vitale di una larva, trasformando il microscopico mondo di una farfalla in un ambiente immersivo e surreale, a volte violento e compulsivo. L'opera è eseguita dal vivo con un basso elettrico e il self-design software Control, che è una interfaccia human computer che sfrutta la tecnologia del physical computing. E questo software è stato sviluppato naturalmente in Pure Data e recentemente pubblicato per uso pubblico e gratuito con licenza GPL. Control è multipiattaforma e riconosce praticamente le note suonate da uno strumento musicale. E quindi analizza queste note e le traduce in comandi e funzioni di processamento audiovisivo in tempo reale. E il progetto è nato 3 anni fa. Il software ora è alla versione 1.2 beta e la performance alla versione 3. In questi anni ho avuto la fortuna di fare molte esperienze in Italia e all'estero, fra cui la Biennale, il Nemo Festival in Francia, il Carnival of Creativity in India e la PD Convention in Brasile. Devo dire che viaggiare è stato fondamentale per lo sviluppo del lavoro. Ora sto collaborando con un amico della comunità di PD, che si chiama Phil Stone, un musicista e programmatore americano, per fare uno step importante nello sviluppo del software. Grazie al suo aiuto abbiamo creato uno strumento di riconoscimento movimento di note musicali che si crea in modo dinamico. Questo vale a dire che indicando in un file di testo quali e quante note si desiderano analizzare, allo startup dell'applicazione lo strumento viene creato dinamicamente secondo i parametri indicati. Inoltre l'aspetto forse più interessante di questo nuovo modulo a cui stiamo lavorando è l'utilizzo del protocollo OSC, l'Open Sound Control. Questo strumento di analisi che abbiamo creato comunica i suoi risultati, vale a dire il nome della nota, la sua frequenza, la sua intensità, e stiamo lavorando anche all'attacco e al decay, e appunto comunica questi messaggi via messaggi globali OSC. Questo vuol dire che presto si potrà utilizzare uno strumento musicale per controllare operazioni diverse non solo in PD ma anche in tutti gli altri software che possono interpretare OSC. Sei di ritorno dalla Pure Data Conference che si è tenuta a settembre in Brasile. Com'è andata? E seconda domanda, quali progetti hai intenzione di fare attualmente e per il futuro? La PD Convention è stata un'esperienza molto intensa, una settimana di full immersion fra conferenze, workshop e performance portate avanti da una trentina di hacker, programmatori e musicisti, con un pubblico sempre numeroso e attento. Quello che più mi ha ispirato è stata la grande eterogeneità di approcci nell'utilizzo dei PD. Ho visto tantissimi lavori diversi, ognuno focalizzato su un aspetto specifico di PD. Ad esempio il progetto di Johannes, il maintainer della libreria video di Pure Data. Questo progetto prevede due pugili che portano dei controller Wii nei guantoni, quindi con i loro movimenti durante il loro combattimento controllano delle sessioni di live coding. È molto molto molto divertente. Oppure mi ricordo la performance di Jaime Olivier, un rullante di batteria svuotato ricoperto da una membrana elastica in cui immergeva le mani producendo un'accurata sintesi sonora in tempo reale che veniva appunto modificata dai diversi gradi di pressione delle mani. O anche il CHDH, sono uno storico collettivo francese che crea performance audiovisuali sfruttando la libreria per il physical modeling creata da loro stessi per PD. Questi sono solo alcuni esempi, potrei andare avanti per ore, ma se volete rendervi conto della ricchezza di contenuti della PD Convention potete scaricare le registrazioni delle performance dalla pagina http://sussurro.musica.ufrj.br/pdcon09/material.html. Un sacco di contenuti molto interessanti. Qui naturalmente potete anche trovare la registrazione della mia performance. Inoltre sul mio sito nella sezione Media Pix troverete la galleria fotografica della convention. A proposito di progetti futuri, progetti per il futuro tanti, forse anche troppi. Parlando dell'immediato futuro, terrò un workshop di 2 giorni a Brescia nell'ambito dell'evento Agit Media. Il workshop sarà dedicato alla sintesi sonora con Pure Data e sarà in compagnia di Ask, amico italiano anche lui utilizzatore incallito di PD, che affronterà il tema del live video. Quindi tenetevi informati tramite il mio sito, presto pubblicheremo altre notizie a riguardo. Sto lavorando al progetto per una nuova performance audiovisuale e per cui sto sviluppando anche dei nuovi moduli di PD che spero presto saranno disponibili in download dal mio sito. Dopodiché ci stiamo preparando alla prossima edizione del Live Performers Meeting, che è uno dei più grandi ad oggi meeting internazionali di audiovisual performance e nuovi suoni elettronici, che si tiene a Roma e la prossima sarà la 7ª edizione. Io sono organizzatore e curatore del meeting e quindi siete tutti invitati a partecipare a questa prossima edizione che avverrà intorno a aprile-maggio. Grazie mille ad essere DJ per questa intervista. Sai cos'è questo? Questo è un criceto, non è uno strumento musicale. No, questa è una piletta azionata a manovella. Una torcia azionata human powered. avrai capito il mio orecchio quanto capisce di musica. E adesso lanciamo l'angolo del fonico, solita classica rubrica del nostro podcast. Senti come suona male da Dio. Ma cosa suona male? Comunque la maracas fa un suono più o meno così. Buongiorno a tutti, rieccoci per l'angolo del fonico, la consueta rubrica curata da me per il podcast di GNU Funk. Oggi parleremo di mastering su suggerimento di un lettore del blog audiofilo.blogspot.com, tale Andy. Ma prima vorrei dare una notizia e annunciare la nascita di GNU Funk Radio, che è questa radio che trasmette esclusivamente musica libera rilasciata sotto licenza Creative Commons. È un progetto collaborativo del canale La-It sul network di Freenode e di GNU Funk. Stiamo già partendo con le prime trasmissioni, secondo me vi piacerà e vi invito ad ascoltarla. Bene, cominciamo con una definizione. Che cos'è il mastering? Molto spesso si sentono definizioni abbastanza fantasiose, se non esoteriche, su questo argomento. Però in realtà il mastering è qualcosa di tangibile, di reale. E il mastering è effettivamente quel processo che è fondamentale per creare il master di un album musicale partendo dalle tracce ottenute dopo il missaggio. Questa è una definizione di Wikipedia che secondo me calza a pennello per questo argomento. In questa definizione sono racchiuse una serie di operazioni di coerenza tra le tracce audio che vengono fatte dopo il mix. Quindi si può correggere il contenuto in frequenza del mix e si possono portare le tracce che compongono un album a un livello pari per rendere un tutt'uno l'album musicale. Su Linux il software più popolare per fare questo tipo di operazioni è di sicuro Jamin. Jamin è un software molto bello che consta di filtri lineari. Chiaramente è supporta jack, quindi denuncia i suoi due in e due out al nostro server a bassa latenza, ha un equalizzatore grafico a 30 bande, ha un equalizzatore a 1023 bande corrispondente a quello a 30, e queste 1023 bande sono hand drawn. Cosa significa? Che ci sono dei controlli parametrici, uno può disegnare un punto e con delle manigliette e una matitina può creare la campana di equalizzazione. Poi abbiamo un analizzatore di spettro che è importante, come sapete, per guardare con oggettività al contenuto in frequenza del vostro mix. C'è un compressore a tre bande dove le bande sono selezionabili. C'è un brick wall limiter e un loudness maximizer. Tipicamente, una volta finito il mix con hardware, si apre un nuovo progetto in cui si può importare la traccia stereo o quelle tracce in più che possono essere utili a una correzione più precisa, e si manda il segnale al di fuori di hardware, appunto dentro Jamin. e da Jamin si rientra in Ardur in una nuova traccia che appunto ne registra il contenuto. Attenzione a non mettere Ardur in monitoring, perché si rischia di sentire una sovrapposizione dei due segnali con una piccola latenza, e questo può essere molto molto fastidioso. Jamin è comunque un processore molto pesante, molto oneroso per la macchina, quindi vi invito indubbiamente a utilizzarlo con una macchina abbastanza potente per poter godere della sua performance. Una cosa che posso dire sul mastering, nonostante io non sia un fonico di mastering ma sia principalmente un fonico di mix, è quello di non esagerare col mastering. Negli ultimi anni si è assistiti a questa deriva del volume, a questo trend che ha portato tutti i dischi a suonare sempre più alto di volume. Questo non è sempre un bene, anzi molto spesso è un male, perché si rischia di rovinare il mix uccidendo la dinamica del brano. Inoltre, più si comprime, più si va vicino alla saturazione, per cui io invito tutti a stare attenti con il mastering onde evitare di rovinare il vostro lavoro precedente. Questo trend che possiamo osservare tutti noi si chiama Loudness War. Vi invito a cercarlo su internet e a informarvi su questa cosa, in modo da non commettere errori che si sentono davvero molto spesso nei dischi che si trovano nei negozi. Ma veniamo alla domanda di Andy. Andy dice: non è che in una prossima puntata hai in programma di parlare di mastering? Jamin non lo aggiornano da secoli, non siamo messi molto bene, mi sembra. Ecco, è una preoccupazione che avevo anch'io. Tuttavia posso rassicurare in qualche modo Andy, perché è sì vero che Jamin non viene aggiornato sostanzialmente dal 2005, cioè in realtà vengono fatte degli aggiornamenti nel back-end per renderlo compatibile alle esigenze dei repositories delle varie distribuzioni, delle nuove distribuzioni di Linux, ma come features, come caratteristiche, effettivamente non ne viene aggiunta una dal 2005. Tuttavia questo accade perché in realtà la roadmap è praticamente conclusa, cioè gli obiettivi che si erano posti i programmatori sono stati sostanzialmente tutti raggiunti. E inoltre anche perché gli stessi sviluppatori ora sono molto occupati con altri progetti e quindi purtroppo possono dedicare poco tempo al nostro Jamin. C'è stato qualche tentativo di fare un'interfaccia semplificata per gli utenti non pro e qualche tentativo per fare un porting su Mac, ma niente è stato finalizzato. Per cui si può dire che Jamin è sicuramente uno strumento abbastanza completo, uno strumento che comunque è molto utile, anzi direi imprescindibile. Tuttavia magari qualche caratteristica in più, come allargare il numero di bande dei compressori a 5 al posto che a 3, potrebbe essere una buona idea. Quindi spero di aver risposto ad Andy correttamente, spero che questa puntata dell'Angolo del Fonico vi sia stata utile. Vi invito ad ascoltare GNU Funk Radio, vi invito ad ascoltare il podcast di GNU Funk, vi invito a seguire il blog audiofilo.blogspot.com e io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata, che sarà circa tra un mese. Quindi grazie a tutti dell'attenzione e ci vediamo alla prossima. Concerto per calcolatore latente. Per calcolatore, scusa? Latente. Niente, quindi Audiofilo è anche su IRC, ma non dice che la sua vita è dipinta di orrore e non vuole, quindi non mi sono neanche azzardato a chiamarlo in conferenza, perché c'aveva anche i suoi cazzi. E io ringrazio, ma tutta la nostra stima la dobbiamo naturalmente a Carlo Ratman, che aveva giurato e spergiurato e promesso di esserci, invece. Sì, se non so se l'avevo già detto, ma gliel'ho chiesto l'altro ieri, mi ha detto sì, ci sono. Gliel'ho chiesto ieri, sì, ci sono, ma ha detto anche che che aveva annullato qualunque impegno. Invece da oggi pomeriggio che è irreperibile. Grazie Carletto. Sì, però comunque grazie per il sito, perché lui ha curato la parte grafica. Poi volevo ringraziare Audiofilo, che si è fatto un mazzo tanto per la selezione musicale in radio, e tutti gli altri, quelli che hanno collaborato per la creazione della radio, che sta diventando un grosso impegno da parte nostra. E le novità ce ne sono tante, le stiamo preparando, ci sono diverse trasmissioni che stiamo preparando, ve ne anticipo qualcuna. Una trasmissione di musica house, che io non so neanche cosa voglia dire musica house, ma credo che sia quella che volgarmente viene chiamata musica discoteca, unz, quelle robe lì. No, unz. Che va in onda ogni mese la terza o quarta, anzi il quarto venerdì, del mese alle 21. Si chiama CC Underground. Esatto. È curata da Mr. Gasoline, se non sbaglio. Mr. Gasoline, esatto. E poi ci sarà un'altra trasmissione che ha uno stampo giornalistico, che viene curata da uno scrittore, e praticamente credo che voglia approfondire quello che abitualmente scrive nei suoi libri. E poi ci sarà una trasmissione dedicata, diciamo, con argomento le news del momento dei blog, soprattutto blog informatici e musicali. E poi il podcast, ovviamente, che ormai compie un anno, perché ad ottobre comincia la seconda stagione, compiamo un anno. E noi, vuoi aggiungere qualcosa, Emilio? Beh no, anch'io volevo ringraziare tutti quanti per queste ottime iniziative, che tra l'altro la radio l'ascolta abbastanza spesso, è molto bella. Sì, all'inizio chiaramente c'erano pochi pezzi, però insomma si stanno rimpinguando grazie a Audiofilo queste playlist. È molto ben selezionata, divisa per fasce orarie, insomma un lavoro fatto bene. Poi chiaramente anche il podcast eccezionale, una risorsa per tutti quelli che hanno i nostri interessi. E anche grazie a Carlo per la grafica, appunto, come tu hai detto, lui è un grafico molto dotato, secondo me. E rinnovo l'invito a coloro che ne sanno di video di visitare openvideo.linux.it e partecipare a arricchire il wiki. Probabilmente mi invitiamo sul canale la-it di IRC, dove noi tutti ci siamo conosciuti e abbiamo familiarizzato, se avete cose da chiederci di persona. Saluto tutti, ciao, a sentirci, alla prossima. grazie mille Millo per essere stato con noi in questa puntata. Noi ci sentiamo ad ottobre. Alla prossima, ciao a tutti.